Perché non va? Perché non va? Perché non va? Ecco qui. Ok. Allora. È la notte giusta e ne verranno altre e altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. E buonasera a tutti, eccoci qua finalmente qui, anche oggi la radio è ricominciata, nonostante oggi pomeriggio non ci siano state trasmissioni, ma finalmente qualche trasmissione in diretta c'è. Buonasera a tutti, questa è l'Espacciaserie in formato un pochino ridotto, un pochino modificato rispetto al solito. Ci sono io che sono Spatch, Scas non c'è stasera, al suo posto abbiamo un ospite. Ospite, presentati. Ospite, sono Claudio, stasera ribattezzato Erie, visto che c'è Spatch. È serio o qualcosa del genere, e vedo, insomma, vi accompagneremo verso in un nuovo mondo questa sera. Ok, allora Claudio, sei venuto qui a parlarci di? Sono venuto stasera a parlarvi di Battlestar Galactica. Oh, perfetto. Battlestar Galactica, che cos'è? Ma Battlestar Galactica è... ma non si può dire cos'è, ma ne parleremo, lo scopriremo nel corso della puntata. Cos'è Battlestar Galactica? È un insieme di intrighi. Innanzitutto è un telefilm di fantascienza. Quando si tratta di fantascienza, io sono il riferimento. Ormai sei il nostro riferimento per la fantascienza. Sono un fantascienzivolo. Cominciando con Star Trek e poi dopo... Sì, no, ma sono riuscito a vedere Quantum Leap, ragazzi. Il telefilm è bello, però. Sì, però è pesante. Ma quanto dura Quantum Leap? Quanto dura? Boh, che so quanto dura Quantum Leap, non ho idea. Dura troppo, Martelli. Sette giorni? Pesante. Uh-huh. Va bene, ok. Stacchiamo qui. La battuta era proprio brutta. Allora... parliamo un attimo della colonna sonora di Battlestar Galactica, così ci spieghiamo anche un po' la musica che ci troveremo durante la puntata. E allora, dai, introducila te, poi dopo. Bah, che dire, è una colonna sonora molto particolare, fondamentalmente è musicale, ha ricordi epici, insomma. E sta appunto a significare la fuga. Qualcuno dice che volesse inneggiare alla fuga, all'esodo degli ebrei dall'Egitto. Addirittura. Teorie. Telefilm seri, io vengo a parlare di telefilm seri, non... Certo, nessuno ti dice niente, infatti. Rendiamoci conto del tema. Ma che facciamo? Facciamo sentire qualcosa, così la gente può già iniziare ad affacciarsi a questo mondo. Ok, mandiamo un primo brano musicale o spezzone video? Ma facciamolo scegliere a Spaccio, via. Allora, mandiamo un primo brano musicale. Allora, il primo brano musicale che mandiamo è un brano un po' più particolare. Abbiamo appena detto che in generale la colonna sonora è soltanto musicata. Questo è uno dei tre o quattro brani cantati. C'è anche il testo, è tra l'altro di Bob Dylan, della canzone. B.R. McCreary è sempre il compositore. E buon ascolto. E eccoci rientrati. Questo era appunto un brano un po' classico come tipo di musica, no? Sentivo rumori dall'esterno, come tipo di musica di tutta la serie, e uno appunto, diciamo, dei pochi parlati. Non mi sembra brilli di gioia, entusiasmo e felicità. Beh, tutta la serie non brilla di gioia, felicità, cioè tutte le... le quattro stagioni della serie non brillano di gioia e felicità, anche perché parla la serie, ecco, di cosa si parla? Ma la serie inizia con lo sterminio della razza umana su lo semi da parte di una loro creazione, i cosiddetti Siloni. Uh-huh. All'inizio della serie, diciamo, sopra si vede l'attacco di questi Siloni sul pianeta capitale. Uh-huh. Della razza umana, dei 12 pianeti comandati dalla razza umana, e pensate, soltanto di 6 pianeti popolati più o meno come la Terra adesso, soltanto 50.000, più o meno 50.000 superstiti riescono a scappare e sopravvivere. Diciamo, il telefilm narra le storie, le vicende della fuga di questi 50.000 superstiti attraverso il cosmo, ecco. Ok. Alla ricerca di non si sa bene cosa, non si sa, della salvezza, ecco. Vedremo. Allora, io direi che potremmo intanto iniziare a mandare anche un primo spezzone. Andiamo. E, ok, le spezzoni servono da lì. E, allora, un primo spezzone di che cosa parliamo? Parliamo un attimino dell'inizio proprio del telefilm, no? Di che cosa succede, per cui... questo direi. Cerchiamo un pochino di raccontare quello che è l'inizio della serie stessa, sì, di, sì. Di questa serie. E che cosa racconta questo spezzone? Ma questo spezzone è proprio l'incipit. Mm-hmm. È quello che si verifica ed è alla base della partenza della serie. Ecco, vediamo, in questo spezzone si troverà è ambientato su una stazione orbitante intorno ad uno dei 12 pianeti comandati dagli umani, una stazione orbitante che aveva lo scopo di fare da zona franca tra gli umani e i Siloni. Beh, perché bisogna premettere che la serie parte... cronologicamente dopo che c'è stata una sanguinosissima guerra tra questi robot creati dagli umani, i tostapane, come vengono chiamati nel telefilm, e gli umani. E dopo una tregua, è stata costruita questa stazione spaziale per discutere trattati commerciali, trattati di pace, okay. tra le due specie in gioco. E in realtà i Siloni non si sono mai presentati su questa stazione. Okay. E a questo punto manderei lo spezzone. Mandiamo lo spezzone. Ok, e quindi che cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato proprio l'inizio della prima puntata che raccontava un po' quello che abbiamo detto noi. Sì, detto mille volte meglio di quanto abbia fatto io. Vabbè, e ecco, raccontaci Claudio che cosa succede subito dopo questo spezzone, che non l'abbiamo messo perché visivo. Sì, è prettamente visivo. Ecco, si presenta al cospetto dell'inviato della Terra una donna bellissima. Lui, innanzitutto, vabbè, 5 robot canonici che vengono raffigurati anche all'inizio del telefilm come i classici Siloni, e poi una donna bellissima che sembra essere al loro capo. Bene, questa donna che fa? Bacia l'addetto alla Terra, e poi la stazione spaziale viene distrutta con un missile, un'arma nucleare. E questo è l'incipit del telefilm, proprio la riapertura della guerra tra i Siloni e gli umani. Una guerra che sembra essere molto più sanguinosa di quella che è appena finita, e che vedrà i Siloni far la parte dei grossi, diciamo, in questo conflitto, perché più armati e perché si erano, vedremo come, infiltrati all'interno delle difese umane. Ok, quindi dicevamo prima, la razza umana viene praticamente annientata. Sì, mancano 50.400 rotti superstiti. Ok, e da dove abitava la razza umana? Ma la razza umana... In questa serie vive, diciamo, è suddivisa, vive suddivisa in 12 pianeti che vengono identificati come le 12 colonie di Kobol. Ok, quindi quando si parla di 12 colonie si parla di 12 pianeti diversi. Sì, sono diversi. 12 pianeti che, sulle quali ci sono diverse teorie. Alcuni dicono che sono 12 pianeti dello stesso sistema solare, altri dicono che sono nella stessa zona della galassia, che è una, insomma, un'ipotesi forse un po' più credibile. Però si parla di 12, appunto, si parla di 12 pianeti diversi che vengono utilizzati per, come specchio di culture, modi di fare, abitudini differenti delle varie società umane. Ok. Cioè, quindi diciamo a Caprica, che è, Caprica, la, che è il pianeta capitale. Principale, la capitale, sì. Sì, diciamo, sì, la razza umana è uno stile di vita che quasi tutti potrebbero identificare come con quello attuale americano, con quello attuale statunitense. Ecco. Okay. E quindi così anche gli altri pianeti avranno delle determinate caratteristiche. Sì, delle proprie caratteristiche, ecco. Perfetto. Quindi la mia domanda da... Faccio finta di non sapere niente di Battlestar Galactica, nonostante l'abbia visto tutto. Ne sai più di me, ne sai... E faccio la domanda che uno spettatore che ci sta ascoltando e che non ha mai visto Battlestar farebbe: ma se loro distruggono più o meno tutti e 12 pianeti di questi umani, questi 50.000 errotti dove abitano? Dove stanno? Beh, questi 50.000 errotti fuggono con delle navi spaziali, ma sono navi spaziali, basi stellari, insomma, loro le chiamano basi stellari. Sono navi basi stellari abbastanza particolari, hanno l'aspetto di dei veri e propri cargo, però a vederli sembrano delle carrette dello spazio. È vero, volutamente anche forse. Sono delle navi, per lo più navi stellari derivanti dalla precedente guerra, sulle quali questi, diciamo, che vengono utilizzate dai superstiti per scappare alla ricerca di non si sa bene cosa, ecco, alla ricerca di un Eden nascosto, di una salvezza. E parlavi, accenniamole, basta, poi dopo lo affrontiamo infatti. Un attimo, quindi non andiamo troppo avanti. L'unica domanda, poi un altro po' di musica. Il titolo della serie, Battlestar Galactica, da che cosa è ripreso? Ma il titolo della serie è la nave ammiraglia, che è alla guida del convoglio di navi che si radunano per la fuga. Diciamo che tutte le navi si radunano divise in 12 gruppetti, ognuno proveniente da una singola colonia. Chiaro. E a capo di questa nave c'è chiaramente una nave partita da Caprica, che abbiamo detto il pianeta che gli americani chiaramente dovevano mettere se stessi a capo del mondo, figuriamoci di 12 pianeti. E questa nave appunto si chiama Battlestar Galactica, che è una vecchia ammiraglia che era, diciamo, doveva essere dismessa il giorno in cui è avvenuto l'attacco dei Siloni, e fa da guida, da faro per la fuga delle navi sopravvissute. Ok, allora mandiamo un po' di musica, mandiamo prima la sigla che ci siamo dimenticati. Sì, ci siamo dimenticati, è una sigla carina, insomma, è una bella sigla. Molto bella. E poi, abbiamo detto prima, la maggior parte delle canzoni sono soltanto strumentali e molto malinconiche, per cui eviteremo di mandare continuamente soltanto musica proveniente da questa serie e manderemo a seguire Edwin Starr con War. Quindi buon ascolto. Eccoci qui. Allora, stavamo iniziando, Claudio, a parlare appunto di delle 12 colonie, di che cosa sono, eccetera. Puoi dirci qualcosa in più? Ma le 12 colonie, innanzitutto è interessante vedere quali sono i nomi delle 12 colonie. Vai. Nella nostra cultura di riferimenti al numero 12 ce ne sono tanti, e uno dei vari riferimenti al numero 12 sono i segni zodiacali. Bene, le 12 colonie hanno proprio i nomi dei segni zodiacali. Sono Aquarion, Erilon, Canceron, Caprica, Geminon, Leonis, Libran, Picon, Sagittarion, Scorpia, Tauron e Virgon. Come vedete, i nomi sono lievemente modificati per dare l'idea di una diversità, di una certa evoluzione rispetto ai nomi che noi possiamo evoluzione dare. Evoluzione o... aspettate. Spoiler. Antecedenza. E qui è tutto il gioco del film, perché comunque della serie. Infatti, quando loro scappano, vanno alla ricerca di che cosa? Della Terra. Spoiler. Questo va, andava detto. Allora, E quindi comunque ci sono, abbiamo detto, queste 12 colonie che hanno nomi di segni zodiacali, eccetera. Sì. Quindi mi sembra di capire che dietro a tutto il telefilm ci sia molto misticismo, ci siano molti segni, molte... Sì, sì, c'è tantissimo misticismo e il telefilm ha anche una fortissima impronta religiosa. Uh-huh. Durante uno dei motivi, una delle diatribe per le quali Siloni e umani combattono è proprio la religione. Gli umani infatti sono dichiaratamente politeisti in uh-huh. questo telefilm e credono in divinità che forse qualcuno di noi conosce, tipo Zeus, Apollo, Era... Forse qualcuno, insomma. Abbiamo sentito nominare, più di qualcuno. Chi ha fatto il liceo classico si spera che le conosca almeno. Per avere Io ho fatto l'istituto tecnico, ma le conosco lo stesso. È un buon istituto tecnico, non capita di frequente. E per cui anche questo è un aspetto che deve lasciare pensare. Ma quindi tu dicevi, gli umani sono politeisti, quindi per contro immagino... Per contro i siloni sono monoteisti, sono monoteisti convinti. Però i siloni sono macchine, per cui le macchine sono religiose? Sì, ma sono macchine particolari, perché avete sentito, le macchine si ribellano all'uomo perché hanno sviluppato una propria intelligenza. Uh-huh. Ma non solo, sono andate anche oltre, hanno sviluppato un proprio credo, una propria religione, hanno un'idea, hanno un concetto di immortalità che gli umani non hanno in questo telefilm. Ok. Allora, anche diciamo, se la sono un po' inventata loro l'immortalità, chiariamoci, però ce l'hanno questo concetto. Immortalità stile Silone. Simon Style immortali. Wow, questo English version. Sì, sì. Ok. E allora io direi di mandare un altro spezzone e proporrei ecco. Proporrei esattamente questo. Andiamo. Lei aveva previsto che i Siloni si sarebbero integrati nella società così in fretta? No, io credo che ci sia voluto l'evento dello stadio per galvanizzare la gente. Una volta che tutti hanno visto quanto i monoteisti ci odiassero e quanto potenti fossero, e hanno visto i Siloni lì a proteggerci, poi... Praticare questo, smarrire la distinzione tra uomo e macchina e attribuire loro qualità umane, è follia. Non c'è modo di sapere cosa ci aspetta, in realtà. Questa tecnologia ci ha permesso di compiere gli ultimi passi fino a Valico, ma al di là c'è una terra ignota. Ok, abbiamo sentito uno spezzone, appunto si parlava dell'origine stessa, no? Proprio dei Siloni, del motivo per cui erano stati creati, cioè quindi maggiordomi, infermieri. Era proprio l'inventore dei Siloni che parlava, colui che li aveva scoperti e inventati. Ok, quindi diciamo per un utilizzo. Ora, questo spezzone però non era tratto da Battlestar Galactica, ma bensì da? Bensì da un suo spin-off che è Caprica, per l'appunto, uh-huh. E narra la vita prima della prima guerra Silone, e cioè appunto tutto il percorso che ha portato alla scoperta, uh-huh. all'invenzione più che alla scoperta, e all'evoluzione dell'intelligenza Silone. Ora, diciamo che avrebbe dovuto portare all'evoluzione dell'intelligenza Silone, perché il telefilm, diciamo la serie televisiva è stata stoppata prima a causa pochi ascolti. No, e quindi non sapremo mai come va a finire questa storia. I Siloni sono evoluti a metà, poi uno vede Battlestar e sono completamente evoluti. Presume, come natura non fa citsaltus, qualcosa ci deve essere stato nel mezzo. Però noi non lo possiamo vedere, diciamo, perché non l'hanno finanziata. Okay. Chiaramente siamo senza... neanche qui c'hanno soldi. Non... Okay. E poi anche di questo se ne parlerà più avanti. Ora, a proposito di spin-off, Battlestar Galactica... Che cos'è? È una prima stagione? È una prima serie? È un remake? Ma diciamo che è un remake di un'idea del 1978, e che adesso, vabbè, una volta uscito il remake, la serie originale viene chiamata Galactica, anziché Battlestar Galactica, uh-huh. E dove quello che avveniva era più o meno lo stesso, il mondo era un po' meno crudo e esistevano anche lì le 12 colonie. Uh-huh. E diciamo, alcuni personaggi erano chiaramente diversi, erano improntati ed erano basati su quelli che erano i canoni di 30 anni fa, ma certo. Più o meno il filo conduttore della serie è lo stesso. Ecco, i Siloni nella serie originaria si vedono molto meno spesso che nel remake. Perché? Perché è più difficile farli. Questione di costi. Io c'ho, a parte poi per i costi, ma poi ho provato a vedere, sono onesto, non l'ho vista molto la serie originale, perché è pesante. Cioè, l'effetto dell'astronave che si muove nello spazio è fatto con un telo nero con i puntini bianchi e l'astronave che cammina. Siamo agli albori della... della fantascienza, sì, sì, come tipo di telefilm. Insomma, 1978, relativamente agli albori, questi probabilmente non ci avevano proprio una lingua, non ci credeva nessuno, sì, in questo telefilm. In effetti già c'era già qualcos'altro. C'erano già le prime serie di Star Trek, insomma, un po' più evolute. Che avevano già inventato il teletrasporto oppure no? Sì, no, lo usavano già il teletrasporto, anche loro per motivi di soldi. abbiamo visto. L'avevamo già detto in qualche puntata fa. Ci siamo giocati 5 domande del quiz successivo con questa mia affermazione. Bene, ma tanto la gente non ci ascolta di continuo, per cui magari potremmo anche riproporla sotto forma un po'. Ma perché ci ascolta qualcuno? Ma boh, io spero di sì. No? Mi dovevi avvisare. In chat c'è qualcuno in chat che ci ascolta? Beh, qualcuno c'ha in chat. Sì, c'è in chat. Diciamo. Ok, allora andiamo avanti un attimo a parlare sempre di Battlestar Galactica. Sì, torniamo ai remake, è più carino. Torniamo al remake. Lo sto vendendo, non ci guadagno niente, ma... Rivendiamocelo. Allora, parliamo un attimo di... dei vari personaggi. Ecco. Ok. Scegli un personaggio, direi... uno che preferisci tu, e diciamo, ma lo preferisco per che motivi? Per motivi cronologici, ad esempio. In che senso? Cioè, ci sono vari, cioè, uno lo può preferire per motivi di aspetto, perché diciamo ci sono 3-4 belle figliole da vedere nel telefilm, lo può per motivi di carisma. In ordine di presentazione nel telefilm, il primo personaggio chiave che troviamo. Sì, no, in realtà il primissimo, ce ne sono due o tre in realtà che compaiono nei primi 3-4 minuti del telefilm, però diciamo forse un po' il colpevole, insomma, colui che ha la... Spoiler. Io mi diverto troppo col tasto spoiler, scusate, ma ogni tanto devo premere. Premilo altre 5-6 volte, è bellissimo. Spoiler. Quasi anche remixato. Visto? Beh, un effetto... Dicevo, forse il colpevole, l'autore dell'attacco Silone, uh-huh, che è un umano però, è Gaius Baltar. Gaius Baltar, è un nome che poi ricorrerà un po' più o meno. Guardate, in tutta la stagione. Anche la bellezza dei nomi, Gaius, un nome di chiaramente latino, Cesare, insomma, ma tutti i nomi in realtà sono, a parte uno, sono quasi tutti di derivazione, di derivazione classica, o comunque hanno questo ricordo del periodo classico terrestre. Ah, addirittura, tutti i nomi. A partire da Adamo, Apollo, ce ne sono, Era, ce ne sono tanti, insomma, dedicati alle divinità. Se ci pensi è un po' come succede da noi. Quando un paese c'è il santo patrono, uh-huh, almeno nel sud Italia, buona parte della gente di quel paese si chiama col nome del santo patrono. E ora i problemi nascono se il santo patrono è la Madonna dello Sterpeto, come a Balletta, le povere figlie vengono chiamate Sterpeta, e lì più o meno è lo stesso discorso. Però sai, quindi l'esterpeta in Battlestar Galactica sostanzialmente. Sì, sì, lì da sterpeta si va ad Apollo, insomma, c'è un certo guadagno, però. Ok, allora stavamo parlando appunto di Gaius Baltar. Chi è? Gaius Baltar è un esimio scienziato. Lui ritiene di essere il miglior scienziato di Caprica, pur non essendo lui di Caprica, attenzione, lui è di Erilon. Erilon, che è una delle 12, la più agricola delle 12 colonie, uh-huh, e che lui chiama un pezzo di roccia un pezzo di roccia nemmeno fertile. Cavolo, cioè proprio sì, molto contento di casa sua. Insomma. Sì, ha un amore per... Ma pare, dicono, che gli abitanti di Erilon sono ottusi, gente che non dà spazio all'arte, alla scienza, alla cultura, e lui infatti scappa su Caprica e diventa insomma uno scienziato, e crede di essere il miglior scienziato di Caprica. Uh-huh. Ed è quello poi che in realtà è l'autore della rovina umana a sue spese. Ma io farei sentire lo spezzone, magari può servire la gente per chiarire. Mandiamo lo spezzone allora. Ci sono 12 modelli. Io sono il numero 6. Non voglio morire. Non voglio morire. Eccoci tornati. Allora, stavamo dicendo che quello che abbiamo sentito è proprio Gaius Baltar, Gaius appunto, Baltar, che parla. Gaius Baltar, che parla con un silone. Con un silone. Parla con un... Vi ricordate quella ragazza bellissima, Silone, che era sulla stazione spaziale? Ecco, la stessa. Diciamo ma proprio la stessa? Un modello numero 6. Ok, cosa vuol dire un modello numero 6? Cioè adesso tu, beh, mi dici un modello numero 6. Diciamo che, beh, abbiamo detto che i siloni erano nati come robot per fare i maggiordomi, insomma, tutti questi camerieri, portare a spasso il cane, tutti questi lavori. Non era importante che avessero sembianze antropomorfe. Beh, diciamo che loro, una volta evoluti, si hanno cercato sempre di più di assomigliare all'uomo, fino a diventare, in 12 modelli da loro stessi preparati, del tutto uguali all'uomo. Ed è questa, il modello che parla con Gaius Baltar in questo spezzone, è il modello numero 6. Ed è appunto ed è lo stesso modello che viene mandato sulla stazione spaziale a parlare con l'intermediario dello spezzone di prima. Ok, quindi la loro immortalità è in realtà, appunto, come dice anche lì, come funziona? Vi dicevo che loro se la sono inventata l'immortalità. Perché? Perché quando un modello muore, la sua coscienza viene mandata e viene impiantata in un altro silone dello stesso modello. Quindi muore un numero 6, la sua coscienza vola via dal suo corpo e viene immessa in un altro silone numero 6, modello numero 6. Per cui diciamo che la coscienza, la vita di un silone, cioè i siloni sono, dal punto di vista della coscienza, immortali. Ok, dal punto di vista soltanto della coscienza, però non del corpo, cioè sì, il corpo è immortale. Sì, il corpo è chiaramente mortale, ma è un mero accidente per loro, cioè è qualcosa di cui non se ne fanno nulla, sono forti credenti nella coscienza, nello spirito, quindi risultano immortali da quel punto di vista. Poi si mantengono giovani, non hanno problemi di rughe. È un bel guadagno. Beh, qualcuno qualche rughettina ce l'ha. Perché lì hanno sbagliato che l'hanno fatto vecchio, ma cioè quello nasce che è già vecchio. Allora, abbiamo detto... Più serioso, sì. Quello è un po' più... Più distinto, sono i modelli importanti, capito? Abbiamo detto 12 modelli, ma questi modelli non si scopriranno, immagino, tutti insieme. No, perché l'aver creato questi modelli umanoidi, i lavori in pelle, come li chiamano gli umani nel telefilm... E vengono utilizzati come spie o vengono immessi nella società umana per cercare di entrare nei meandri della società umana. E per cui molti di loro addirittura non sono neanche coscienti di essere siloni. Nello specifico 5 di loro non sono neanche 5 dei 12 modelli non sono neanche coscienti di essere siloni. Ok, perfetto. Per cui credo che abbiamo iniziato un pochino a contestualizzare abbastanza. E a questo punto io manderei un altro brano musicale, e questo brano musicale è uno tra sempre tratto dalla colonna sonora, quindi sempre composto da B.R. McCrae, uno di quelli un pochino più divertenti. È sempre soltanto musicale, per cui non ve ne mandiamo altri troppo in seguito, però a me piace e buon ascolto. E rieccoci qui. Ok, mi è andato un tarallo di traverso, scusate. Sì, perché è dato l'orario, dobbiamo mangiare anche noi. Allora, abbiamo detto che i siloni sono fondamentalmente monoteisti. Sì. E che il monoteismo è anche una delle cause di scontro fra i siloni e gli umani. Sì, forse è proprio la causa principale di scontro. Ok. E da dove deriva il monoteismo dei siloni? Cioè, io mi immagino, no? Sì. Che un silone viene costruito dagli umani e quindi vive all'interno della comunità umana. Sì. E visto che gli umani sono politeisti, come fa a inventarci il monoteismo? Ma diciamo che il silone non si è anche in questo caso inventato niente, perché diciamo sono stati gli umani a insegnare il monoteismo ai siloni. E nello specifico una parte degli umani che era nello spin-off Caprica viene indicata ed è monoteista. Diciamo, sviluppa questo concetto dell'unica divinità misericordiosa, insomma un po' quella come la nostra divinità cristiana. E, però siccome questa, diciamo, questa nuova divinità non raccoglie molti proseliti nella società umana dell'epoca, e pur di continuare a professare questo credo, anziché insegnarlo agli umani, questi pochi umani, che per lo più venivano da Geminon, dal pianeta, dalla colonia Geminon, decidono di insegnare il monoteismo ai Siloni e dare questo e usano il monoteismo come speranza per i Siloni. Sì. Iniziano a fornire appunto ai Siloni l'idea, cioè il monoteismo diventa il mezzo secondo per il quale i Siloni possono emanciparsi dalla società umana e rendersi indipendenti. Perfetto. E anche su questo noi abbiamo sì, uno spezzone esemplare, che non è altro che una predica della prima sacerdotessa di Geminon ai Siloni. Perfetto. Anche questo però non è tratto da Battlestar, sì, ma è tratto da Caprica. Questo è tratto da Caprica, perché vabbè, è una sorta di prequel di Battlestar e ci spiega alcune cose della serie principale. Ok, benissimo. Mandiamo la spezzone. No, non questo. Abbiamo un piccolo errore tecnico. Ok. Ci siamo. Questo. Siete voi vivi? La risposta più semplice sarebbe che voi siete vivi. Perché potete porvi tale domanda? Voi avete il diritto di pensare. E rieccoci sempre qui. Quello che avete appena sentito era Ryan Adams con Desire. Ricordiamo sempre che tutte le musiche che mandiamo è sempre tratta da colonne sonore di telefilm, perché noi qui solo questo mandiamo. Sì, ci occupiamo solo di telefilm, purtroppo. No, purtroppo, per fortuna. Dovete imparare a guardare più telefilm, sempre di più. No, diventano una droga. No. Appunto, li spaccia serie perché si spacciano i telefilm. Ma va bene. Ok, e appunto Desire, perché abbiamo mandato Desire? Perché appunto si stava parlando di questo desiderio dei Siloni di essere umani, sostanzialmente, sì, di essere al pari degli umani. Al pari degli umani. Sì, appunto è questo che spinge i Siloni nel loro attacco alla Terra. Ok. Dove appunto, come avete sentito nello spezzone, i creati, diciamo, distruggeranno i loro creatori. Il creato va contro il creatore. È proprio questo lo spirito con i quali i Siloni attaccano la Terra e cercano di rendere se stessi il proprio aspetto sempre più antropomorfo. Cioè passano appunto da tostapane a lavoro in pelle. Bisogna entrare nel gergo, nel modo di parlare di Battlestar. È un modo di parlare estremamente crudo, cattivo, e stava anche causando la non uscita del telefilm. Ah sì? Beh sì, perché c'erano un sacco di parolacce, come se gli americani sono puritani, da quel carità di Dio. Infatti se vedete una puntata di Battlestar Galactica, ogni circa 10 secondi viene utilizzata la parola freck. Ma cos'è? La parola freck è l'equivalente del beep. Che possiamo mandare noi. Abbiamo anche il beep. Eccolo lì. Non lo vedo. Scendi. Eccolo. Esattamente. L'equivalente di questo. È l'equivalente di questo suono qui per coprire le parolacce. È stato dovuto introdurre nella serie. No, questo era un'altra cosa. Che è questa cosa? Era una dolce risatina. Ma vabbè, non preoccupiamoci. No, è un telefilm crudissimo. Ci sono un sacco di scene di sesso, guerra, gambe mozzate. Una tragedia. Ce n'è per tutti i gusti. Per non parlare poi di come inizia, che ecco. Inizia con la devastazione di 5-6 pianeti così alla luce del sole. Come se niente fosse. Allora, appena appunto la domanda che viene spontanea è: ok, abbiamo già detto all'inizio, 12 coloni, 12 pianeti distrutti, sì. 50.000 persone che si salvano e si salvano su navette spaziali un po' mezze diroccate, sì. E vanno diciamo, la deriva nello spazio alla ricerca di qualche cosa. Forse abbiamo anche già detto qualche cosa, sì, ma non ridiciamolo. Abbiamo già spoilerato, non ce l'ho non fatta. Ridiciamolo. Ah, a proposito di spoiler, rassicuriamo i Nef sul fatto che in realtà non abbiamo spoilerato la fine di Caprica. Nel senso, se guardi una puntata di Battlestar e già risai tutte le cose che sai. Che abbiamo detto noi adesso e che lo Spezzone diceva. Quella è la fine che uno si aspetta, diciamo. Di Caprica non dice, è bello lo sviluppo. Perfetto. Allora, appunto, dicevamo, abbiamo 12 colonie distrutte, abbiamo un po' di navi e mezze raptoppate che vanno alla deriva nello spazio, ma cosa succede? Cioè, poi come si organizzano per vivere? Cosa succede? Ma l'organizzazione che questi, che i superstiti mantengono, si danno fondamentalmente è quella che avevano sulle 12 colonie, è un mantenimento di quella che avevano sulle 12 colonie. Okay. Con il problema che nell'attacco, chiariamo subito un punto: telefilm americano, sistema politico americano, quindi una repubblica, una democrazia presidenziale, dove il presidente è a capo di tutto, sono bello io, sono fico io, era anche nero, mi sa, quello dell'originale del telefilm, per cui era perfetto. Cioè, proprio era. Rispecchiava esattamente i tempi, ma parecchio, di qualche anno. Scusate, qualche anno, dipende se tu vedi, valuti la cronologia del telefilm. Oh, vabbè, questo è uno spoiler pazzesco. Schiaccio il spoiler. E dicevamo, è una repubblica presidenziale, muoiono il presidente, buona parte dei consiglieri, degli uomini del congresso, e a capo di questa delegazione, di questo gruppo di superstiti va un personaggio che poi è uno dei personaggi chiave della serie, che è il vicepresidente, che è la segretaria del presidente, ed è l'insegnante Laura Roslin. Wow, Laura Roslin. Sì, l'unico nome che non c'è, che vi dicevo prima, che c'è uno o due nomi che non c'entrano niente con il mondo classico, bene, questo è quello di Laura Roslin. Un personaggio particolare, un personaggio estremamente carismatico, una donna rivista, smaniosa di potere, con molto polso, che sa anche gestire la situazione, ecco. Con molti problemi, oltre quello della, insomma, appunto, di dover guidare 50.000 superstiti incazzati, scusatemi il termine. No, il beep mi è scomparso, però... Il beep. Ecco, ok. Dobbiamo dire frecca anche noi, Tommaso, se no ci chiudono. Proviamo, se no poi Leo ci chiude, immagino. Sì. Ci chiudono. Questa è una radio pulitissima. Sì, sì. Ah, sì? Sì. Non c'è? Pure mi era parso di sentire del turpiloquio. Mai. Quindi siamo una radio seria. Civile e moderna. Questa è una citazione di Cinemando, chi ha seguito Cinemando ieri su Fantozzi avrà capito. No, dicevamo, una persona estremamente di polso che, appunto, oltre al dover guidare questi superstiti, afflitta da vari problemi, tra cui un cancro che dovrà, appunto, dovrà affrontare in qualche modo. Il cui sviluppo si segue durante tutto il corso della serie, e attorno al quale ruotano personaggi fantastici. Ma vabbè, basta parlare un po' di Laura Roslin. Vediamo un po' se... Ascoltiamo un po'. Mandiamo uno spezzone. Vediamo, perché questo è uno spezzone che si fa anche vedere. È un giuramento. Alla fine è un giuramento, ed è il giuramento che presta Laura Roslin quando si nomina o viene nominata da quelle tre persone che le sono intorno presidente della delegazione delle 12 colonie. Ok. Quindi mandiamo lo spezzone. Eccolo. Per favore, alzi la mano destra e ripeta dopo. Io, Laura Roslin. Io, Laura Roslin. Giuro solennemente che sono disposta ad accettare. E rieccoci qui. Allora, come dicevamo prima, appunto, la colonna sonora è molto strumentale, per cui evitiamo di portare avanti questa canzone per più del tempo necessario. Che causi la sopravvivenza di una persona. Ok. Allora, appunto, stiamo parlando di questi, appunto, di altri personaggi, di Will Adamo e via dicendo. Ora, cara Tracy, abbiamo detto anche questo, parliamo un attimo, cerchiamo un attimo di capire i Siloni. I Siloni, allora, abbiamo detto che ci sono 12 modelli, 5 dei quali si scopriranno molto si in là. Nel corso della serie. E, però ecco, stavamo dicendo che questi Siloni hanno un... cioè, ci sono all'interno... cioè, forse non lo dicevamo, iniziamo a introdurre. Iniziamo a introdurre un po' questa... Ci sono un po' di discordie fra i vari Siloni. Qualcuno la pensa in un modo, qualcuno la pensa in un altro. Come si differenziano? Ma un po'? Diciamo che ciò che accade è questo. Cioè, quando la volontà da parte dei Siloni di ribellarsi al popolo umano, uh-huh, fa sì che si formino due fazioni. Una prima fazione, che è quella che vede nella natura umana l'obiettivo da raggiungere. Okay. E una seconda fazione, che è quella che vede la natura umana come un limite, uh-huh, della propria essenza. E diciamo, questa è quasi una naturale evoluzione dell'odio che i Siloni nutrono verso gli uomini, ecco. Ok, e quindi a questo proposito noi abbiamo anche un... Abbiamo uno spezzone che è uno sfogo da parte di un... forse del è uno sfogo da parte di Cavill, il più acerrimo, quello che odia di più le sue sembianze umane, il Silone che odia di più le sue sembianze umane, che appunto parla e rende esplicito quello che è proprio tutto il suo odio verso la sua natura umana. Ma io direi di farlo sentire agli ascoltatori. Perfetto. Allora, mandiamolo e buon ascolto. Mi raccomando, ascoltatelo bene. In tutti i tuoi viaggi, non hai mai visto una stella supernova? No. No? Io invece sì. Ho visto una stella esplodere e disseminare i primi frammenti dell'universo. Altre stelle, altri pianeti e in seguito forme di vita. Una supernova. L'essenza della creazione. Io c'ero, volevo vedere e vivere quel momento. E sai come ho percepito uno degli avvenimenti più belli dell'universo? Attraverso queste ridicole e gelatinose orbite che ho nel cranio. Con occhi ideati per percepire solo una minuscola frazione dello spettro elettromagnetico, con orecchi strutturati per ascoltare le vibrazioni dell'aria. Noi cinque ti abbiamo ideato con le caratteristiche umane più verosimili. Io non voglio essere umano. Voglio vedere i raggi gamma, voglio udire i raggi X e voglio sentire l'odore della materia oscura. Capisci l'assurdità di quello che sono? Non so esprimere dei concetti in modo adeguato perché devo concepire idee complesse usando una stupida lingua parlata piena di limiti. Voglio poter toccare con qualcosa che non siano queste mani da scimmia e sentire il vento solare di una supernova accarezzarmi il volto. Sono una macchina. Io potrei conoscere molto di più, potrei sperimentare molto di più, ma sono intrappolato in questo corpo umano. E perché? Perché i miei cinque creatori hanno pensato che Dio mi volesse fatto così. Rieccoci. Eccoci qui. Allora, appunto, questo è proprio un grandissimo sfogo di Cavill. Che dice proprio: a me questo corpo umano mi fa schifo. Mi sta stretto. Lui vorrebbe percepire appunto tutto lo spettro elettromagnetico, vedere i raggi gamma, sentire i raggi X, cose che chiaramente le... Questo tra l'altro mi ricorda un film a me. E che film ti ricorda? Blade Runner. Questa non è mica la sola somiglianza tra Battlestar Galactica e Blade Runner, eh? Ah no? Eh no, perché i lavori in pelle erano anche i replicanti di Blade Runner. Bravo. Qui c'è una cultura fantascientifica di livello, poi il resto fa pena, ma... È bello sapere che poi del resto fa tutto bene. Ok. Allora, quindi anche all'interno di Siloni ci sono idee un pochino contrastanti, non sono poi proprio così proprio tutti convinti e d'accordo su quello affatto, da fare. No. Sono solo 12? 12, in realtà sono solo 7. Sì, sono solo 7 perché poi i 5 che si scoprono nel corso della stagione non hanno neanche coscienza di essere Siloni. Spoiler. Questo andava fatto. Sì, ma andava comunque detto. Ma abbiamo detto 6 volte. Vabbè, però ogni tanto ripetere sempre... Spoiler. 6 spoiler. Vabbè, basta, ma 2 volte. Basta. Benissimo. Allora, altre cose interessanti da dire su questa serie. Appunto... Vai. Sarà il caso che diciamo dove vanno queste... Dove cercano di andare queste navi o... O ce lo teniamo insieme? Facciamo proprio il botto. Facciamo allora, una bomba. Diciamo che chiunque voglia seguire questa serie non ascolti le prossime 3 parole. Si stacchi, partecipi al quiz successivo, ma si. Intanto, prima di dire questa cosa, ecco. Ricordiamo che se volete partecipare al quiz abbiamo ancora circa un quarto d'ora di tempo. Potete cercare gli spacciaserie tutto attaccato su Skype e chiamarci, possibilmente non mentre stiamo mandando uno spezzone video, grazie. Sì. Altrimenti si sente la chiamata in diretta e potrebbe risultare brutto. Però ci contattate e vi chiamiamo subito dopo. Quindi, ora il grande spoiler. Spoiler. Dove vogliono andare? Loro vogliono andare sulla Terra. Ah, ti ho detta così. È proprio grossa. Deve essere cruda perché non si può dare in un altro modo questa notizia. Perché è proprio questo il gioco su cui si basa tutto il telefilm, secondo me. Questa incapacità di capire dove siamo, quando siamo, perché siamo, dove è ambientato. Ok. Allora, io adesso direi, per organizzarci un attimino col quiz, mandiamo un attimo un brano musicale e ci organizziamo un attimo col quiz e ritorniamo dopo subito col quiz, spero. Va bene. Rieccoci qui, quella che avete appena sentito era Run Run Run dei Velvet Underground, anche questa sempre ripresa da altre serie TV, e siamo pronti per fare il quiz. Sì. Anche oggi, super anche qui, quiz settimanale. Super quiz settimanale per richiesta, su richiesta del nostro ospite che ora è al telefono e che si presenterà, selettivo su Battlestar Galactica. Sì, sì, abbiamo trovato un appassionato e quindi... Allora, caro ospite, ci sei? Sì, sì, perfetto. Sentite? Allora, noi ti sentiamo, ti dovrebbero sentire anche di là. Vedo che anche hai staccato la radio, per cui bravo. Ti ringraziamo per questo. E allora, intanto come ti chiami o come ti vuoi far chiamare e da dove vieni? Ok, allora, mi chiamo Ines, in chat. E, vabbè, tanto penso che mi presenterò meglio in futuro. Ok. E, attualmente sono a Pisa e magari per chi vi interessasse dal mio accento si potrà capire, vengo dalla Sardegna. Ma guarda, l'accento in realtà non è che si capisse molto, sembrava quasi no. Io in verità avevo capito. È colpa della dislessia. grazie, è vero. Ok. Dai, allora facciamo questo test. Così. Facciamo questo quiz. Questo quiz ce li ha dei premi o non? Allora, il premio come sempre è la tazza virtuale, non più virtuale, ma pur sempre virtuale degli spacciatori. Ma non era la maglietta adesso? No, la maglietta, allora, la questione maglietta, spieghiamola agli ascoltatori. Sono venute fuori le magliette, ma per adesso sono soltanto ancora e solo per lo staff. A breve, si spera, se riusciremo a trovare il modo, saranno anche disponibili per tutti gli altri. Purtroppo per ora ancora non possiamo distribuirle. la direzione ci impone di non distribuirle. Però provvederemo quanto prima. Allora, sei pronto per le domande? Vai. Allora, partiamo con una domanda facile. Cioè proprio più facile di così. Di cultura televisiva. Ecco. Cultura televisiva, cultura di serie TV su Battlestar Galactica. Ah, ok. Allora, Battlestar Galactica viene citata molto spesso in una serie comica attualmente molto in voga. The Big Theory. Oh, ok, vabbè. Allora. Vabbè, cioè, è questa. Era facile, domanda 1 fatta. Domanda uno... Questa era facile, siete stati buoni, dai. Sì, sì, sì. Questa era facile. Le prossime due saranno un po' più difficili, però possiamo darti una mano. Ok, vai. Allora, la prima domanda, che incuriosisce molti spettatori di Battlestar Galactica. Non so se sicuramente tu l'hai notato, lo dico per quelli che non l'hanno visto, tutti i fogli che vengono utilizzati non hanno una forma rettangolare ma hanno una forma ottagonale, cioè nello specifico gli angoli, i quattro angoli vengono tagliati. Okay. Sai dirmi il perché? Intanto senza risposta multipla, altrimenti ti do dei suggerimenti. No, non mi ricordo il perché. Ok, proviamo con dei suggerimenti. Allora, per voler, allora, risposta numero uno: perché non sapevano fare fogli rettangolari. Risposta numero due: è un messaggio che vuole mandare il regista. Risposta numero tre: 8 è un numero importante nella serie di Battlestar Galactica. Te ne do soltanto tre, dai. Siete buoni anche in questo caso, fammi ricordare. Allora, l'8 non mi sembra che sia un numero importante, è un numero importante, non mi ricordo, no. B, è un regista che vorrebbe, è la seconda direi, è il regista che voleva dare un messaggio al pubblico. Perfetto, e ora il nostro ospite ci spiegherà qual è questo messaggio. Il messaggio deriva da un'espressione inglese con la quale si identifica il tagliare i viveri, cioè il cut the angle, tagliare gli angoli, sta a significare tagliare i fondi a una serie televisiva. E lui, tagliando gli angoli dei fogli, non ha fatto altro che mandare il segnale, il messaggio che per la produzione di Battlestar Galactica erano stati dati pochissimi soldi. Quindi non solo all'università, ma anche per le serie TV, i soldi sono pochi. Mancano. E con questa risposta già siamo a due risposte esatte su tre. Il traguardo si sta avvicinando. La tazza è in arrivo. Ok. Claudio, fai a te l'onore della terza domanda. Allora, come mai Katie Sackhoff, che saprei sicuramente chi interpreta nel telefilm, cioè Starbuck... Katie Sackhoff. Sì, ok, ho capito, sì. Quando ha sempre un cerotto sulla spalla sinistra. Sì. Hai già un'idea o vuoi degli aiuti? Vuoi, insomma, delle scelte? No, aspetta, qual è la domanda? Come mai Katie Sackhoff, l'attrice che interpreta Starbuck... ha sempre un cerotto sulla spalla sinistra. Questa la sapevo, non me la ricordo adesso. Era per nascondere il tatuaggio? No. Sì, esattamente. Che tatuaggio? Vediamo, ti do una mano, se vuoi. Aquila era, non mi ricordo. Un'aquila, boh. Allora, no, guarda, aspetta. Ragioniamo. Aspetta, ragioniamoci, perché allora, intanto la risposta... è data, io la darei esatta, per buona, è buona. La darei per buona, per coprire un tatuaggio va benissimo. Ora cerchiamo e quindi, di arrivare al perché. Diciamo pure che quindi, congratulazioni, sì. Nef, hai vinto la tazza, virtuale, non più virtuale, ma pur sempre virtuale, bla bla bla. Ok, detto questo, cerchiamo un attimo di capire che tatuaggio era, vediamo se riesci a indovinare anche questa, ti faremo un altro regalo, vedremo di farti un altro regalo tra un po', non stasera. Allora... allora, abbiamo detto serve per coprire un tatuaggio. Ora, i tatuaggi chiaramente potevano esistere nel mondo di Battlestar Galactica. Sì, perché coprirlo? Ma viene coperto perché è un simbolo di qualcosa che in Battlestar Galactica non poteva esistere. Proprio non ci può essere. Un simbolo religioso? Religioso, sì. Ah, Vai che ci sei. Una croce. Una croce. Una croce. Esattamente. È una croce cristiana. Sì. E chiaramente quello è un simbolo che in Battlestar Galactica non poteva essere presente, per cui coprono sempre con un cerotto. Un cerotto. Ok. Sì. Una piccola correzione. Vai. Prima avete detto che si scopre che i Siloni sono 12 molto avanti, tipo seconda stagione. In realtà No. Si scopre l'identità dei Siloni andando avanti. Ok, scusate, ho mal interpretato. No. Ci siamo espressi male, ma l'intenzione è... Che i Siloni siano 12 modelli si dice nella prima puntata. Cioè nel pilot. Già. Tra l'altro, appunto, era uno spezzone che abbiamo mandato all'inizio. Chiedo scusa. Lo so, io purtroppo mi sono perso i primi minuti, mi dispiace. Tranquillo, non c'è problema. Le correzioni, quando ci sono doverose. Ok, detto questo, noi salutiamo INEF e ti ringraziamo per averci chiamato. A breve riceverai. Facciamo i complimenti per le risposte. Ti facciamo i complimenti. A breve riceverai la tazza come premio. Che io l'aspetto con ansia. Ok, e facciamo anche un piccolo spoiler. Avremo anche INEF a breve in carne e ossa qui. Sì, infatti. Ok, però... mi raccomando, gente in chat, venite, vi parlo di una bella serie. Venite e ascoltate, cioè potete stare anche a casa, l'importante è che ascoltate. Sì, infatti, io... Ok, grazie mille Nef, ci risentiamo a breve poi in privato. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ok, detto questo, il nostro tempo è praticamente già scaduto, siamo già in ritardo, per cui io mi fermerei qui. C'è già Luca di Online Song che è qui, che è trepidante per andare in onda. A grande richiesta di Nef, che purtroppo, come ha già detto, si è perso l'inizio, l'inizio della puntata, rimandiamo il primo brano musicale che abbiamo mandato, sempre tratto dalla serie. Salutiamo tutti e ricordiamo però due cose. Intanto vi saluta anche Scas, che però stasera non c'era, ma vabbè, vi saluta sempre perché lui è sempre nel nostro staff. La settimana prossima non andremo in onda, in quanto giovedì è la sera della Luminara qui a Pisa, e scusate ma ci sono altre priorità, e quindi ci rivediamo direttamente la settimana successiva, nello specifico giovedì 23. E quindi buone due settimane a tutti e buona serata a tutti. E... Un saluto da Claudio o Eserie, a seconda del... e da Spaccio.